Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo giovedì 17 ottobre. Naturalmente parleremo della tragica questione internazionale con altrettanto tragica situazione dei migranti abbandonati al loro destino in mezzo al mare. Parleremo anche della manovra economica italiana, delle inevitabili polemiche tra i fautori e i contrari, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, giovedì 17 ottobre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato in particolare alle notizie dall'Africa e dall'Europa. Noi cominciamo con l'Africa, cominciamo con la Guinea Conakry, dove si è aperto e subito chiuso il processo iniziato ieri contro 8 militanti dell'opposizione, accusati di essere gli organizzatori delle proteste partite lunedì contro l'eventuale modifica della Costituzione, necessaria per permettere all'attuale presidente Alpha Condé di ripresentarsi per un terzo mandato. Gli 8 imputati erano tutti membri del Front National pour la Défense de la Constitution, coalizione che riunisce partiti di opposizione, sindacati e membri della società civile. Ieri sono continuate intanto le proteste, che hanno fatto salire il bilancio delle vittime a 10. Oltre ai morti si contano 70 feriti e 200 arresti. Le autorità continuano a parlare di 2 soli decessi, un agente e un manifestante. Il processo contro gli 8 arrestati riprenderà venerdì. Tunisia, il partito di Nabil Karoui, sconfitto alle presidenziali di domenica, ha annunciato ieri che non presenterà ricorso contro il risultato elettorale. Non possiamo far altro che salutare la volontà del popolo, ha detto una delle portavoci del partito. Oggi verranno presentati i risultati definitivi da parte dell'Istanza Nazionale per le Elezioni e i deputati potranno fissare la data del giuramento di Kais Saied, vincitore del ballottaggio, giuramento che deve avvenire entro 10 giorni. Spetterà poi a Saied di incaricare Ghannouchi, capo del partito di ispirazione religiosa Ennahda, che ha avuto il maggior numero di voti alle legislative del 6 ottobre, di formare un governo. Burkina Faso ha decretato misure d'urgenza nelle province del nord, del centro-nord e del Sahel, sottoposte a continui attacchi di gruppi armati. Nel centro-nord, tra le 18:30 e le 6 del mattino, sarà vietata la circolazione dei veicoli a 2-3 ruote di cilindrata superiore a 125, misura quasi simile presa nella regione Sahel, dove il divieto della durata provvisoria di 45 giorni vale solo per alcune province, mentre nel nord riguarda la sola provincia di Lorun, dove tra le 18 e le 6 del mattino solo le ambulanze in possesso di lasciapassare saranno autorizzate a circolare. Kenya ha inaugurato ieri la linea ferroviaria tra la capitale Nairobi e Suswa, città del nord nella valle del Rift. La linea, costata 1,5 miliardi, finanziata con prestiti cinesi, è contestata per la sua presunta inutilità. Suswa, secondo i detrattori, è l'equivalente del nulla, ma il presidente Kenyatta replica che il nulla è per lui il da qualche parte dove costruire il futuro del Kenya, ha detto ieri durante l'inaugurazione in un discorso che è stato poi pubblicato sul sito della presidenza. Sudafrica, la polizia ha sequestrato marijuana per un valore equivalente di circa 300.000 euro, destinata, secondo gli investigatori, alla Namibia. Il portavoce della polizia ha detto che l'operazione è stata resa possibile grazie a una soffiata. Le 4 persone arrestate compariranno oggi in tribunale. Nascere nella Repubblica Centroafricana significa avere il 2500% di possibilità in più rispetto a un bambino nato a Cuba di morire entro il 5° anno di vita. È uno dei dati dello studio che esamina la mortalità infantile in 99 paesi, quelli in cui l'indice di non sopravvivenza continua a essere alto. Certo, tra il 1950, anno di riferimento, e adesso la mortalità infantile si è ridotta del 75%, passando da 19,6 milioni alle attuali 5,4. Ma non c'è però una diversa mappa geografica, si continua a morire, osserva lo studio, laddove si moriva nel secolo scorso. Dipende da molti fattori, ma incrociandoli tutti, un nome viene fuori, quello di Garki, nord della Nigeria, ai confini col Niger. È la città dove è più alto il rischio di non arrivare a 5 anni di vita. Il link alla mappa completa è allo studio sul nostro sito. 39 ore di registrazione. Tanto dura il file messo online lunedì e che dettaglia una notevole parte della rete di corruzione che attraversa la Slovacchia, la stessa che ha portato poi all'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua compagna, uccisi nel febbraio dello scorso anno. L'esistenza delle registrazioni era nota da tempo, ma finora c'erano state solo delle trascrizioni, definite poco fedeli, di alcune parti. Una copia del file, che fa parte delle registrazioni effettuate dai servizi di intelligence nell'ambito di un'inchiesta del 2011, denominata Gorilli, Gorilla, era stata trovata nella cassaforte di Marian Kuchna, l'uomo d'affari condannato come mandante dell'omicidio Kuciak. Anche in quel caso erano stati rivelati solo alcuni stralci delle registrazioni, da cui veniva fuori la compravendita di parlamentari in occasione di nomine giudiziarie e l'interesse di gruppi finanziari nelle privatizzazioni. La massima do papula uš prvi krát, keď si tvrdil, že si to tomu Jarovi neukazoval, keď si pred tými x rokmi. To si sa po 7 rokoch priznal do píši zmaklano. Takže neklam, rozprávaj pravdu. Ako? Prečo? Prečo si to urobil? Poi lunedì, nella sede di alcuni media, è arrivato il link da cui scaricare tutto il file. I giornali hanno cominciato a pubblicare pezzi di trascrizione, ma soprattutto gli audio, che rivelano come il livello di corruzione abbia pervaso tutte le istituzioni. La maggior parte delle quasi 39 ore di registrazione di Gorilla toccano discorsi tra il comproprietario del gruppo finanziario Penta, Jaroslav Ašak, e l'allora ministro dell'economia, Žirka Malčarka, e l'ex capo del Fondo Nazionale per la proprietà, Anna Bubenik. Per venerdì in diverse città slovacche sono state indette manifestazioni dalla piattaforma Za slušné Slovensko per una Slovacchia decente per chiedere le dimissioni di politici e autorità coinvolti nello scandalo. E gli scandali in Slovacchia non hanno comunque impedito di assegnare ieri a Bratislava l'incarico di essere sede della nuova Agenzia Europea per l'Occupazione, presentata proprio ieri dal capo della Commissione Europea Juncker e dal premier slovacco Pellegrini. Danimarca si potrebbe aprire la strada del processo in patria per Morten Messerschmidt, deputato e esponente di spicco del partito di estrema destra Dansk Folkeparti, all'epoca dei fatti presidente del gruppo europeo MELD, Movimento per l'Europa delle Libertà e della Democrazia, per l'uso improprio di fondi concessi dal Parlamento europeo a titolo di rimborso spese. Il denaro, secondo l'organismo di controllo dell'Unione europea Olaf, avrebbe dovuto essere utilizzato per pagare campagne di informazione sull'Unione europea, invece è andato a beneficio dei singoli partiti che lo componevano. Il procuratore della Danimarca per il crimine internazionale ed economico dovrà ora stabilire, sulla base del rapporto Olaf, se esistono le basi per ulteriori indagini e per un eventuale processo. Spagna, terzo giorno di proteste ieri dopo la sentenza pesantissima nei confronti di 9 indipendentisti, esponenti del governo che nell'ottobre di 2 anni fa aveva organizzato il referendum per l'indipendenza della Catalogna. Ieri nella mattinata da diverse città della regione sono partite lunghe marce che dovranno arrivare contemporaneamente a Barcellona venerdì, quando è prevista un'altra grande mobilitazione. Ieri i partiti conservatori di destra hanno invocato il ricorso all'articolo 155 della Costituzione, che prevede la sospensione dell'autonomia della Catalogna, e alle leggi che decretano lo stato di emergenza. La imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. De esa forma, ante cualquier eventualidad o necesidad, el Estado puede asumir las competencias que considere urgentes. Propongo que se aplique la Constitución. Propongo que estudiemos cómo, en qué competencias, en qué tiempo y cuánto tiempo se aplica el artículo 155. La premier Sánchez ha replicado que per ora non ne vede la necessità, mentre Pablo Iglesias, leader di Podemos, ha chiesto una soluzione politica e non repressiva. Creo que la aplicación del artículo 155, cuando se llevó a cabo, no sirvió para solucionar ningún problema. Sirvió básicamente para convocar elecciones en Cataluña y que se produjera un resultado muy parecido al anterior. Por lo tanto, pensamos que ha quedado constatado que no es una medida que sirva para contribuir a una gestión política inteligente del conflicto que se vive en Cataluña. Di quanto sta succedendo in Spagna ne parleremo oggi pomeriggio in un'intervista realizzata con Daniele Cozzoli, docente all'Università di Barcellona. A giugno è stato scelto dai Verdi come loro candidato a sindaco di Parigi nelle elezioni che si dovranno tenere il prossimo anno. E 2 giorni fa, con un messaggio su Twitter, ha annunciato la presentazione della sua proposta per la capitale francese, con un tema principale: basta con il turismo. David Belliard, 41 anni, militante ecologista, giornalista di Alternative Economique, nato in Campania, ha sicuramente fatto notizia con le sue idee. Meno favori all'industria del turismo, freno a Airbnb e alla moltitudine nei camere sfitte ogni notte a Parigi, 17.000 secondo i suoi calcoli, in una città dove la gente dorme per strada per i carri affritti, e se proprio si vogliono attirare persone, che sia fatto con i treni di notte, non più con aerei o piste di atterraggio. Vi interessa? Sul nostro sito il link al programma di Belliard. In tema di ambiente, il Bundestag tedesco ha iniziato a discutere ieri delle misure del cosiddetto pacchetto clima, il piano del governo per ridurre le emissioni di CO2 che è stato presentato il 20 settembre e che ora deve essere implementato. Tra le nuove norme spunta l'abbassamento dell'IVA per i viaggi in treno, che scende dal 19 al 7%, compensata invece ad un aumento per le tariffe aeree. Dall'aprile 2020 la tassa sul traffico aereo dovrebbe aumentare del 74%, dunque 13 euro circa per voli fino a 2500 km, del 41%, cioè 36 euro, per rotte a medio raggio fino a 6000 km e 59,43 euro per voli a lungo raggio. L'aumento delle tariffe per il corto raggio dovrebbe contribuire in particolare a evitare i voli nazionali. Le entrate aggiuntive previste sono di 740 milioni di euro rispetto al calo invece del biglietto del treno, al calo delle entrate dei biglietti del treno di circa 500 milioni di euro. Restiamo in tema ambientale perché l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha pubblicato ieri un rapporto sugli effetti dell'aria inquinata sulla salute, secondo il quale il particolato e altri agenti inquinanti sono responsabili di 400.000 morti premature avvenute nel 2016 nella sola Unione Europea. Secondo i dati raccolti, quasi tutti gli europei che vivono nelle città sono esposti a un inquinamento atmosferico che supera i valori raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo porta a problemi di salute e a una riduzione dell'aspettativa di vita, ma, sottolinea il rapporto, anche a perdite economiche come l'aumento dei costi nel settore sanitario. E questo è tutto per quello che riguarda il notiziario di oggi. Io vi saluto, vi lascio con il resto delle rubriche di Radio Bullets per chi ci ascolta online, con il resto della programmazione di Radio Città Fugico per chi ci ascolta da Bologna. Vi do appuntamento a domani mattina, questa volta con Barbara Schiavulli. Una buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti a un altro Pinsimonio. Questa è l'ultima puntata della settimana che conclude il filone del conflitto. E le parole di oggi sono escalation, esasperare, collera, efferato e sdegno. Partiamo con escalation, che indica una condotta delle operazioni belliche caratterizzata da un aumento progressivo e graduale nell'impiego delle armi e nell'estensione delle misure militari. Il termine ha assunto questo significato e si è diffuso con riferimento ai modi dell'intervento degli Stati Uniti nel Vietnam a partire dal 1964. In senso più ampio, escalation indica qualsiasi azione o comportamento caratterizzati nel loro corso da un aumento graduale di impegno o di intensità, per esempio un'escalation della repressione. Continuiamo con esasperare, che significa rendere più aspro, più doloroso o gravoso. In senso figurato, aggravare o rendere più intenso, portare a un limite estremo, esasperare uno stato di tensione. Con riferimento a persone, significa irritare fortemente, provocare uno stato di grave risentimento fino al limite della sopportazione, esasperare i sottoposti con prepotenze. Il participio passato è esasperante, che si usa come aggettivo nell'indicare un forte senso di irritazione. E dall'esasperazione può nascere la collera, che in senso più antico indicava un umore bilioso, ossia spesso, pesante, scuro. E invece con un'accezione più moderna esprime un improvviso sentimento d'ira, di breve o di lunga durata, insorto per reazione a un torto subito o a una grave mancanza altrui, e che può manifestarsi con atti e parole o consistere in un prolungato e tacito sdegno verso il colpevole. E andiamo avanti con efferato, che è un aggettivo participio passato di efferare, che significa rendere selvaggio, che deriva dal latino ferus, ossia feroce. Infatti efferato sta ad indicare qualcosa di feroce, barbaro, inumano. Più che nella persona, si dice dell'azione commessa con ferocia e crudeltà o dei sentimenti, un efferato delitto, una persecuzione efferata. E terminiamo infine con sdegno, che indica un risentimento misto a disprezzo che insorge verso persone o cose da cui si sente gravemente offeso il proprio senso morale, provare sdegno. Con significato invece meno grave, indica un risentimento o una disapprovazione, ma senza disprezzo o indignazione. Così terminiamo e io vi aspetto sempre alle 9:15 martedì prossimo su Radio Città Fujiko e vi auguro un buon proseguimento sulla rassegna stampa di Radio Zanardi. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Ringrazio di cuore H, che ci ha offerto la base per questa puntata, le cui produzioni sono reperibili su soundcloud.com/hcmc. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. My girl. mine, girl. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Minuti, questo 17 ottobre, giovedì. Naturalmente ripartiamo ancora dal Kurdistan invaso dai fascisti di Erdogan. E così Siria, dice tristemente la pagina del Manifesto, l'esercito siriano è a Kobane, Erdogan nessuna tregua. Le milizie islamiste danno fuoco al campo di Ayn Issa e liberano prigionieri dell'ISIS, perché chiaramente liberano, poi arruolano nelle loro truppe di terra di askari ferocissimi. Trump: i curdi non sono angeli, il PKK è terrorista. Cioè, nell'incontro con Mattarella Trump dice che i curdi sono peggio del PKK, i curdi del PKK sono peggio dell'ISIS, ma ad Ankara Pence fa anticamera. Quindi il sultano, fate attendere anche l'inviato americano in questo gioco delle parti, in cui gli americani si ritirano per far procedere avanti l'esercito turco. Le aviazioni russe e siriana fermano i raid aerei turchi, durissimi scontri a Serre e Kanije. Ecco, come era facile prevedere, la resistenza curda sta sorprendendo Erdogan e le sue milizie fasciste, e appunto la guerra feroce incombe e sta distruggendo vite, persone, cose, ospedali colpiti, 275.000 sfollati e 1,6 milioni di civili che necessitano di aiuti umanitari, rimasti da solo, perché anche le azioni governative di ONG hanno dovuto abbandonare il campo, perché sembra che appunto i turchi stiano bombardando indiscriminatamente tutto. L'appello arriva anche da un ponte: per crisi devastante, l'Italia ritira i soldati dalla Turchia e fermi anche gli elicotteri in partenza alla volta di Istanbul. Il reportage da Lorenzo Cremonesi, dalla città simbolo della resistenza curda, ritorno a Kobane dove c'era l'ISIS, si attende la furia turca. I curdi si ritirano, entrano le truppe di Assad, Erdogan aspetta. Si sta creando delle complicazioni a Erdogan, perché c'è appunto una situazione sul campo che rende meno facile la sua avanzata di come forse aveva previsto, anche per le implicazioni politiche e geopolitiche con siriani e russi sul campo. Oltre le macerie, il presidente turco vorrebbe cancellare tutto ciò che ha a che fare con l'identità curda, mentre questo sia in patria, in Turchia, che fuori. E sulla questione della democrazia interna, il Fatto Quotidiano ci dice: traditori, in carcere chi la chiama guerra. Quindi questa è la democrazia in Turchia in questo momento, e naturalmente le vittime non sono solo i curdi, ma sono anche i turchi, tutta la grande parte democratica, che per esempio ha messo Erdogan in minoranza nella città di Istanbul. La collera del sultano: gli oppositori politici che criticano il conflitto finiscono sotto indagine, così avvertiti. E c'è anche da dire questo elemento che arriva da Contropiano, il giornale comunista online, che titola: la politica estera dei social network è pro Erdogan. Sembrerebbe un'esagerazione, ma poi andiamo a leggere. Un algoritmo ammazza l'intelligenza, o se volete l'intelligenza artificiale è politicamente un potente idiota che lavora per chi dice di volere combattere. La pagina Facebook di Contropiano è stata nascosta, al pari di decine di altri che in questi giorni ha scritto o postato correnti filocurdi e contro Erdogan. La motivazione, come sempre, non c'è. La frase che giustificherebbe questa decisione è di singolare stupidità: sembra che un'attività recente sulla tua pagina non rispetti le condizioni delle pagine Facebook. In pratica avrebbero dovuto scrivere: non sappiamo neanche noi perché la tua pagina è stata bloccata, perché abbiamo creato degli algoritmi ciechi che scattano automaticamente quando incontrano le parole, certe parole, certe foto. Ma avrebbero fatto una pessima figura, e quindi dicono una formula: la tua pagina non rispetta le condizioni delle pagine Facebook. E non sa, nessuno sa quali sono le condizioni, evidentemente. Non è solo Contropiano che viene censurato perché parla male dell'invasione in Siria di Erdogan. Anche il Manifesto con Giansandro Mierli oggi parla di Facebook. La censura sostiene la guerra contro il Rojava, perché oltre al Manifesto, oltre al Contropiano, censurate le pagine Global Project, Milano in Movimento, comunque stessa sorte rischi di toccare a Dinamo Press, Info Out e Radio Onda d'Urto. Questa è la democrazia di Facebook. Buongiorno a tutti e a tutti da Andrea. E mentre all'aeroporto Marconi di Bologna c'è una manifestazione contro l'aeroflotta turca, noi continuiamo, e presto avremo ulteriori informazioni, noi continuiamo con le pagine dei giornali a esaminare La Stampa, pagina 5, dalla Siria: Erdogan scarica Trump e vola da Putin, Ankara pronti a sanzioni contro gli USA. L'offensiva, dice Erdogan, non si fermerà fino a quando i curdi non se ne andranno. L'incontro a Sochi il prossimo 22 ottobre. E c'è il reportage, sempre dalle pagine della Stampa, di Giordano Stabile, inviato a Erbil, che ci dice che le truppe di Assad sono entrate a Kobane e a Raqqa. I curdi interrompiamo le operazioni anti-ISIS. I numeri fino a questo momento sono 653, il bilancio dei curdi neutralizzati dall'inizio dell'operazione militare, e 71 i civili uccisi, tra cui 21 bambini, secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. Sempre dalla Stampa, il numero del giorno è 230.000, che sono gli sfollati in Siria dopo l'attacco turco. Con oltre 230.000 sfollati, il quadrato umanitario nel nord-est della Siria rischia di precipitare. È l'allarme lanciato da 73 organizzazioni umanitarie, tra cui Oxfam, e impegnate nella crisi siriana, che compongono il Syria International NGO Regional Forum. Secondo le stime delle Nazioni Unite, infatti, oltre 400.000 persone avranno bisogno di aiuti umanitari immediati nelle prossime settimane. Una delle situazioni più gravi si registra nella città di Ashakek, dove in tre giorni sono arrivati 60.000 persone in fuga dal conflitto con i soldati turchi. E ancora da Repubblica, sempre su questo argomento, c'è un dossier di Stefano De Lellis, che il Medio Oriente è alla corte di Putin, sembrerebbe Putin il vincitore. Mosca voleva l'uscita di scena degli USA dalla Siria e l'ha avuta. Cercherà ora di raggiungere un'intesa con Ankara che faccia rivivere gli accordi di Adana nel 98, stretti dopo la crisi tra la Turchia e la Siria, di Assad padre, per l'ospitalità offerta al leader curdo Öcalan, stabilendo un equilibrio frontaliero accettabile per tutti. Il presidente russo Vladimir Putin entro la fine mese riceverà l'omologo turco, appunto Erdogan, a Mosca. Sia Erdogan che la Russia vogliono evitare il conflitto che si allarghi. Il leader turco andrà da Putin, come si è detto, a discutere di una soluzione. C'è un'intervista a Nesrin Abdallah, la comandante curda. In Italia, se armi i turchi, uccidi il nostro popolo. Siamo sotto il fuoco dell'artiglieria pesante turca. Le milizie affiliate alla Turchia sono quasi a 20 chilometri dalla città. L'Europa si assuma la responsabilità di fermare questo massacro. Stiamo combattendo anche per voi. Sono le 3 di pomeriggio a Kobane, mentre Nasrin Abdallah riesce a collegarsi con Skype con l'Italia. La connessione è debole, intorno alla città sono in corso i combattimenti. Abdallah è la comandante dell'unità di protezione popolare delle donne curde, la brigata femminile dell'IPG, che conosce bene l'Italia, che c'è stata più volte. E ciò che sembra fanciullesco, ridicolo e patetico in un momento di così negazione di ogni speranza, pensare ancora, immaginare ancora un mondo come lo immaginano i curdi, multiculturale, tollerante, di pace, pacifista, rispettoso dell'ambiente, coi diritti delle donne, e in questo momento sembra tutto una cosa, un libro solo dei sogni, ma noi invece pensiamo che sia la realtà. Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people you imagine no possessions. John Lennon Imagine, continuiamo a immaginare, a pensare che un altro mondo è possibile, perché altrimenti dall'indignazione si passa alla disperazione, la disperazione non è affatto buona consigliera. Tra l'altro, in questo incontro tra il nostro presidente Mattarella e il presidente degli Stati Uniti d'America, Trump, c'è stata una linea di scontro su tutto il fronte, perché di fronte si parla. Nonostante che l'Italia abbia acquistato una carriolata di F-35, svenandoci e togliendo soldi dalle scuole, agli ospedali, a tutto, alle infrastrutture e quant'altro, non è mai abbastanza. Quindi Trump non solo chiede più impegno economico per la NATO, che è tutto meno che difesa, ma anche sui dazi sono botte da orbi. Mattarella, devo dire con un certo orgoglio, non ha fatto il servo dei servi dei servi, ma ha detto la sua. Mattarella tregua sui dazi, no di Trump che attacca l'Unione Europea. Poi ha detto la classica frase di Prammatica, no ma l'Italia è amica, ma intanto bastonate. Addirittura, secondo il Fatto Quotidiano, Trump ci minaccia, niente web tax, ecco tutti i numeri, un pizzino a Mattarella. E credo che siamo in grado, perché il nostro direttore è arrivato, è in trasmissione, quindi tra un attimo penso che possiamo collegarci con l'aeroporto di Bologna, dove c'è un blitz dei compagni contro il terminal turco. Sì, esatto, abbiamo appena raggiunto Giovanna, che è un'attivista di uno dei movimenti che sono insomma più o meno una decina, i movimenti bolognesi che hanno deciso di fare questa azione questa mattina all'aeroporto Marconi di Bologna, cioè di fermare l'imbarco per il volo della Turkish Airlines, che è appunto la compagnia di bandiera turca. Noi abbiamo raggiunto Giovanna, allora direi di sentire le sue parole. Abbiamo deciso di boicottare, di bloccare quello che è l'imbarco della Turkish Airlines. Come sappiamo bene, purtroppo da una settimana, più di una settimana, la Turchia sta bombardando la Siria del Nord e la Siria dell'Est. Ci sono già centinaia di morti tra donne e bambini, ed è proprio di ieri sera, tra l'altro, la notizia dell'uso delle armi chimiche da parte della Turchia. Sabato scorso, sempre qui a Bologna, come in tutto il mondo, siamo scesi in piazza in centinaia e centinaia per chiedere appunto la fine di questo genocidio e anche la fine dei rapporti tra l'Europa, tra l'Italia e la Turchia. Quella dell'Italia ovviamente è stata una lavata di faccia, perché hanno detto appunto pubblicamente di aver bloccato gli armamenti da dare alla Turchia, ma ovviamente questo è soltanto per i nuovi contratti. I vecchi contratti, che continueranno fino a dopo dicembre, ovviamente non vengono bloccati, quindi la Turchia continua ad avere appunto armamenti da parte dell'Italia. Infatti proprio in questa settimana passerà un car armato famosissimo per le strade di Roma, da portare appunto in Turchia, che sembra fare addirittura 600 colpi in un minuto. Queste dunque alcune parole che abbiamo raccolto da Giovanna, che è un'attivista che in questo momento, insieme ad altre ed altri, sta bloccando appunto l'imbarco per i voli della Turkish Airlines all'aeroporto di Bologna. Ovviamente rimandiamo le ascoltatrici e ascoltatori al sito radiocittafugico.it per la versione integrale, per anche ovviamente foto e video di questa azione. Si parla anche di una manifestazione nazionale da organizzare, e credo che è un'occasione irrinunciabile per il movimento pacifista, direi civile, di questo paese, per dimostrare tutto il not in my name verso questa guerra davvero vergognosa, ammesso che esista una guerra che non lo sia. Mi sposto, ammesso non concesso, mi sposto in Catalogna. La Catalogna marcia verso Barcellona, cresce la preoccupazione per lo sciopero di protesta indetto per domani, con la Liga in allerta per il classico di Al Camp Nou di sabato 26. C'è lo sciopero generale domani, quindi sono già previsti, questa mattina sono già scontri, arresti a Barcellona, quindi la situazione è niente affatto pacificata, tanto più dopo le terribili condanne inflitte ai capi indipendentisti per il referendum democratico sulla indipendenza da parte della Catalogna dalla Spagna. E quello che il movimento si chiama tsunami democratico. Divergenze tra gli indipendentisti, perché sono diverse anime anche molto contrastanti in questa indipendenza della Catalogna, la situazione potrebbe sfuggire di mano, teme il manifesto. Invece tanto tuono che forse non piove. Parliamo della Brexit, si è parlato molto di questo accordo in zona Cesarini, per usare un termine calcistico, che metterebbe insieme qualcosa, abboraccerebbe una diplomazia tra l'uscita del Regno Unito dall'Europa Unita. La Brexit è allo sprint finale, con un altro rinvio in vista, diceva questa mattina Gaia Cesare. Ottimismo tra i leader dell'Unione Europea e il premier inglese per il vertice di oggi a Bruxelles, ma serve l'ok di Westminster. In realtà serviva l'ok, in particolare nella fronte di destra del Regno Unito, degli orangisti, della destra cattolica dell'Ulster, perché tutto sappiamo che il nodo è la frontiera tra l'Eire e l'Ulster in Irlanda proprio. E allora è arrivato il nodo al leader di questa organizzazione, il DAP, all'ipotesi di accordo. La linea unionista nordirlandese del Democratic Union Party, che di democratico non c'è nulla evidentemente, tal signora Foster, ha reso noto che non sosterrà l'ipotesi di accordo sulla Brexit su cui lavorano il governo Johnson e Commissione dell'Unione Europea. In questa situazione difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo. Il DAP si è detto comunque disposto a lavorare con il governo perché arrivare a un accordo che, secondo il DAP, è ragionevole. Debba essere ragionevole. Intanto il no della forza politica nordirlandese ha già fatto inciampare la sterlina, che perde lo 0,4% sull'euro scambiato a 1527. Sì, è ancora l'analisi su questo argomento di altre pagine di giornali. La Repubblica, vi segnalo Concetto del Vecchio, giornalista di Repubblica, che dice: bravo Presidente, niente sconti a Trump. E invece Federico Rampini che dice che la conferenza stampa Trump-Mattarella parte bene ma finisce male, perché Trump non resiste alla tentazione di essere se stesso. È il suo limite o la sua forza? Il Presidente della Repubblica Italiana, da prima sciorina dei bei voti, poi si addentra su un terreno scivoloso, e nel frattempo l'Italia ha comprato gli F-35, e c'è una bellissima vignetta all'interno di LK che, dove c'è il presidente Mattarella e il presidente Trump sul palco per parlare. Il presidente Mattarella dice: l'Italia condanna l'invasione di Erdogan in Siria, e Trump se ne esce con una frase tipicamente romana: esti dazi, dice appunto. E parliamo di donne protagoniste nell'America Latina. Cominciamo con Darcy Lanza. Violenza di genere in Argentina, l'incontro, cioè l'incontro ovviamente, fa la forza. In 200.000 La Plata per discutere e mobilitarsi. È il 34esimo incontro, racconta Darcy Lanza dall'Argentina, dal Manifesto, il 34esimo incontro nazionale delle donne, uno spazio necessario per pensarci. In un paese in cui governa Macri, cioè la destra, c'è una legge che destina ad ogni donna 11 pesos per prevenire la violenza. Questa è quella iniziativa. E loro commentano: la nostra vita vale meno di una caramella, perché una caramella in Argentina costa di più. Questo è il quadro, e c'è da ridere per non piangere. Mentre dall'Argentina mi sposto in Brasile, e qui troviamo Monica Benicio, compagna di Marielle Franco, l'attivista e consigliere comunale uccisa nel 2018 a Rio de Janeiro, che fa ai nostri microfoni una fotografia attuale del Brasile, dove l'odio che professa Bolsonaro si riversa sulle strade, ma genera anche un'opposizione sociale che è guidata dalle donne. E allora ascoltiamo le sue parole. Entender que no, um pouco antes do período eleitoral, na verdade já desde o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, um golpe. Per capire le circostanze politiche del paese dobbiamo guardare un po' indietro, già dal golpe contro la presidente Dilma Rousseff, un golpe dalle caratteristiche misogine, e avevamo già lì la costituzione di un mostro chiamato PT, attraverso l'uso dei media, della stampa, che costituirono una narrativa secondo cui il PT aveva distrutto il Brasile e la speranza. Quindi si arriva al periodo elettorale in cui ci troviamo già con Marielle assassinata e Lula imprigionato, e così arriviamo alle elezioni di Jair Bolsonaro, che stava già da 30 anni nel Parlamento brasiliano e che era conosciuto per essere un uomo solo un'aberrazione politica, dato che non ha mai proposto nessun tipo di progetto di aggregazione per la popolazione brasiliana e non si sapeva collocare a livello diplomatico e politico. Era conosciuto solo per le cattiverie e le stronzate che diceva, quindi dall'essere uno scherzo di cattivo gusto si è convertito a Presidente della Repubblica attraverso una campagna fatta da fake news e dentro

9:57 minuti, veniamo alla manovra italiana, per alcuni una manovra di svolta, per altri una stangata terribile. Credo che sia più equilibrato il ragionamento del manifesto, non è né l'una né l'altra. La manovra delle mezze misure. Questo è il titolo del manifesto sull'argomento e Luigi Pandolfi commenta nel commento di fondo: la svolta ancora non si vede. Invece passiamo alla destra, apriti cielo, perché addirittura il giornale rapina in casa, stangata continua. Aumentano le imposte sugli immobili e sugli affitti, colpito anche il popolo del prete IVA e spuntano anche altri 12 miliardi di tasse in più. La verità, abbiamo manovra con scasso, altro furto in casa, più o meno fa l'eco al giornale. Libro, piovono tasse dal governo, Salvini colto la malora, quindi c'è quasi un martirologio di Salvini che, per lui poi è stato giustamente all'ospedale per una colica renale, poi è andato a fare un comizio la sera, quindi non mi sembra che sia un martire dei martiri. Il Tempo, si Ministro del comando, piovono tasse. Questa è la sfida dei giornali della destra, mentre altri giornali parlano stop all'Ilva ma salgono le tasse. Il Mattino parla di una manovra più o meno analogamente. Quindi ancora abbiamo altri giornali, la tasse bolle colpite ancora la casa, insomma il Carlino, e vengo al Corriere invece con le dichiarazioni di Conte. Non temo ribaltoni, una manovra forte guarda il futuro, chiaramente il Premier tira la giacca dalla parte sua, intervista al Premier, basta scontri sulle misure, tasse sulla plastica, la rivolta delle imprese. Una tassa sulla plastica vuol dire che non è neanche così sbagliata, se si riducesse l'uso della plastica nel paese forse, mentre naturalmente tutte le imprese del packaging cercano di aumentare sempre di più l'utilizzo del PVC e quant'altro. Ma una manovra che è riuscita a promettere, a mantenere quello che aveva promesso, non aumenterà l'IVA, sostanzialmente questo. Però viene inficiata da tutta la ricerca di visibilità di sgambetti contro sgambetti che fanno gli alleati di governo, che si sbugiardano a vicenda oppure mandano dei lanci d'agenzia su cui i giornali poi ricamano. Per esempio adesso manovra Di Maio a Renzi all'attacco, Di Maio ha un problema di dimensione ridotte del 5 Stelle rispetto alle ultime elezioni, mentre Renzi deve lanciare la sua Leopolda, quindi devono avere visibilità. Il sì, famoso salvo intesa che c'è nel documento, che naturalmente lascia un certo thrilling, sui contanti il carcere urla veti minacce fino alle 5 del mattino. Anche qua verrebbe da dire, chiedere a Monica Guerzoni in questa retroscena chi gliel'ha detto, chi è stata la gola profonda che ha dato queste notizie, qualcuno evidentemente che cerca appunto spazio sui giornali. Allora la bella nova dell'Italia dei Valori renziana lancia lì una provocazione bella e buona: dai dem pregiudizi che irritano, grazie a noi un testo più equo. E fin qua, no? Grazie a noi. Le nostre priorità sono quelle del governo Renzi. Naturalmente un governo Renzi che è stato massacrato dei voti, eccetera, eccetera, si rivendica la sua centralità senza fare un minimo di autocritica, chiaramente difficilmente poi può coesistere tranquillamente con le altre forze che sono battute contro questo governo Renzi, come i 5 Stelle o come l'EU. Il Fatto Quotidiano. Lotta agli evasori, pronto allo scontro. Questo è il Fatto Quotidiano, abbandonato Di Maio di fatto, e adesso il suo testimonial è il Premier Conte, che anche nell'incontro dei 5 Stelle dopo 10 anni ha avuto un sacco di applausi dal popolo grillino. Conte intervistato dal Fatto: è una rivoluzione culturale per tutti i cittadini, per la prima volta lo Stato premia gli onesti senza punire chiusa i contanti, i grandi evasori andranno presto in carcere. Questo è Giuseppe Conte. Sì, ancora il focus di Repubblica su questo argomento è invece sul fatto che il governo ha traballato sulla manovra, la guerra tra i ministri PD e renziani, e c'è Franceschini che si lamenta: troppi ricatti così non duriamo. E la tassa sulla plastica invece crea la rivolta degli industriali. E a pagina entriamo nello specifico della manovra, a pagina 7, 30 miliardi per bloccare l'aumento dell'IVA, arriva una raffica di mini tasse. E c'è un retroscena perché Bruxelles sta preparando una lettera di richiesta di approfondimenti. L'Italia è a rischio, le coperture sono dubbie, la Commissione europea non boccerà la manovra, almeno al momento, ma vorrà chiarimenti sul deficit al 2,2%, è fuori dai parametri, decisiva la flessibilità. E fra le manovre, come diceva Alfredo, le cose più significative sono che resta quota 100, gli assegni verranno rivalutati rispetto all'inflazione, il lavoro stipendi più alti ma non si sa né come né quando, il cuneo fiscale, il costo del lavoro sarà tagliato per 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi nel 2021 e 2022. Per ora la manovra istituisce un fondo dove mettere nuove risorse e si deciderà nei prossimi mesi di concerto con le parti sociali come destinare. La sanità, l'addio al super ticket, ma solo a settembre. E la famiglia, un fondo unico e c'è la carta dei bimbi. E c'è un articolo di Stefano Folli sulla famosa dicitura di questo decreto approvato questa notte sul futuro salvo intese, questa famosa dicitura salvo intese che compare più volte nella manovra perché è possibile ancora fare delle modifiche prima che venga approvata definitivamente dal Parlamento. Un futuro salvo intese, un'Italia forse ancora in piedi, salvo intese, ironizzare sulla bizzarra precisazione che accompagna l'annuncio della legge di bilancio è fin troppo facile ma è inevitabile. E ancora Stefano Folli continua su questo argomento, ma c'è anche un corsivo molto interessante di Luca Bottura che fa notare come le cose migliori del governo Conte escano alla notte, probabilmente perché alla notte i giornali sono già usciti o evidentemente nella lunga trattativa governativa, come sa fare Conte in questi tempi, alla notte le forze risultano molto meno impegnate. E Conte viene di notte con le scarpe tutte rotte. Ma la notte no. Detto questo stacchetto demenziale, veniamo invece a proprio demenzialità, l'incontro tra Salvini e Renzi in casa di Bruno Vespa. Si domanda, e credo con una certa ragione, Antonio Padellaro, dal punto di vista di Salvini, perché legittimare un avversario che vale il 4%? Perché Salvini ha bisogno di Renzi e per questo lo sfida in TV. Italia Viva è utile, è il cavallo di Troia del Conte 2. Quindi valorizzare, infatti tutti hanno notato che più di parlare male dell'altro, tutti hanno parlato male del governo dei 5 Stelle. E allora questo, tra l'altro sabato si aprirà la Leopolda, non so se due o tre o quant'altro, non ho mai frequentato quegli ambienti. Wanda Mara dice a Leopolda la firma del contratto stile Vespa. Ricordate quando Berlusconi firmò il contratto più italiani? Sembra che lo voglia fare davanti a un notaio anche Renzi di fronte ai suoi ultras. Non è solo Renzi il problema del PD, perché Orfini, dopo che Zingaretti ha detto facciamo con i 5 Stelle un polo progressista, Orfini per cambiare linea serve un congresso ostile a questa pagina, dice Democrac del Manifesto, il capofila dei giovani turchi, oggi essere giovani turchi non è praticamente un bel suonare, comunque boccia l'alleanza con i 5 Stelle sarebbe un suicidio. Rimane però il fatto, e vorremmo sapere che Orfini ci dice se come, in un'ipotesi prima o poi di essere maggioranza nel paese, se l'obiettivo è avere il 51% come TPD o ci si può alleare con qualcuno, perché altrimenti c'è poco da scegliere. Ma Vespa, Salvini, Renzi, chi ha vinto? Secondo Luigi e Laura Rio del giornale non c'è dubbio, Vespa ride tra i litiganti, boom di ascolti, confronto tra i due Matteo da record seguito da 3,8 milioni di spettatori. Sì, cambiamo argomento, a questo punto parliamo di migranti e la triste tragedia accaduta qualche giorno fa al largo di Lampedusa e scoperta solo grazie a dei video subacquei e il sommozzatore. C'è un'intervista su Repubblica a pagina 17, il capitano Rodolfo Raiteri, 52 anni, capitano di vascello, responsabile dei reparti subacquei della Guardia Costiera, il quale dice: vedendo le immagini dei corpi che ci sono venute le lacrime agli occhi, ma il difficile sarà oggi quando torneremo giù per recuperarli. L'abisso che i nostri occhi non volevano guardare, un commento di Pino Corrias sempre su queste pagine. Le foto dei migranti morti nel naufragio del 7 ottobre, c'è Salvini che attacca il governo, ma la ministra dice il boom di sbarchi non c'è, questi sono solo piccoli barchini che continuavano ad arrivare sia prima che oggi che durante queste cose. e c'è invece su La Stampa, pagina 14, un'intervista a Pietro Bartolo, l'ex medico di Lampedusa. Abbiamo depredato l'Africa e adesso dobbiamo cominciare a restituire qualcosa. Quelle fotografie mi fanno vergognare, l'Europa non può guardare dall'altra parte. Quasi, però, dal punto di vista dell'immigrazione, la cosa migliore è che quasi 350 salvati in mare, il Viminale apre i porti e anche qui Salvini sbraita. Malta chiede aiuto all'Italia per il salvataggio di 172 migranti nella propria zona SAR, ma poi assegna come POS Lampedusa le motovedette italiane nonostante lo sbarco che eseguono. Le Ocean Viking, navi di ONG, ne salvano 176 in SAR libica e chiede il POS a Italia e Malta, e Roma assegna in poche ore Taranto come porto di sbarco. Nel contempo chiede il coordinamento all'Unione Europea per la redistribuzione. È la nuova linea del Viminale e del governo. Basta porti chiusi, navi in mare per giorni di attesa e allocare quote migranti, per dirla col ministro dell'Interno Lamorgese, coniugare il rigore nei confronti del traffico dei trafficanti con il rispetto dei diritti umani. I corpi del relitto, dice con un triste ma felice gioco di parole il manifesto. Dai fondali del mare al largo di Lampedusa le immagini che di shock dei migranti naufragati il 7 ottobre scorso, tra i 12 corpi individuati anche quelli di una giovane mamma col suo bambino. Al via il recupero del relitto, opere del delitto ma un lapsus comprensibile. Intanto sui sbarchi Frontex mentisce Salvini. Sì, perché noi sappiamo che uno dei leitmotiv Salvini, che da quando non c'è lui, sono triplicati gli sbarchi in Italia. Lo dice continuamente in tutti i luoghi. Però nel 2019 in Italia meno sbarchi, il boom degli sbarchi in Grecia. Quindi Salvini o non Salvini, appunto, come dicono i barchini, non cambia un granché, il dramma rimane finché non sarà possibile arrivare in Italia pagando il costo di un normale traghetto in un normale viaggio con un normale passaporto. Ma veniamo invece, ed è legato a questo, col trade union con l'ambiente, perché è difficile distinguere la questione della gente che deve scappare da dove viva, dalla disgrazia alimentare ed ecologica. Monica Di Sesto ci parla della FAO, l'Organizzazione Mondiale dell'ONU sulla fame. Il sistema alimentare mondiale è al collasso. L'allarme dell'Organizzazione Internazionale è lanciato durante il congresso di Roma, che naturalmente non viene seguito nessun giorno, nessuna TV, perché se ne frega della fame del mondo. È una roba routine, è vecchio. Il modo di nutrirci, produrre cibo e distribuire causa il 40% dei mutamenti climatici. E Jack si fa sempre questa plenaria FAO, anche questo non interessa a nessuno, perché siamo molto interessati a cosa dice Renzi di Salvini e Salvini di Renzi. Fame, guerra e caos climatico, fermarli si può. L'economista USA ragiona sui 17 obiettivi entro il 2030 dello sviluppo sostenibile. Il Corriere della Sera ci parla di questo incontro ravvicinato del terzo tipo, perché c'è questo sinodo del Vaticano sulla fame nel mondo e sul clima e sull'Amazzonia. E beh, al sinodo interviene un personaggio che ben conosciamo, Carlo Petrini, quello di Slow Food, che parla molto di cibo chilometro zero, di cibo naturale. Nel suo Slow Food torinese vengono anche gli indio a presentare le loro culture e i loro piatti. Beh, lui parla di questo incontro, così testimonia il Corriere: io agnostico dal Papa la nostra sfida comune per cibo d'ambiente. Carlo Petrini con Francesco, il libro Dialogo sulla enciclica. Questo è quanto, che ci porta, a proposito di cibo, anche all'extraterrestre. Anzi, prima passiamo per Avvenire, che segue questo sinodo e titola Non sprechiamo il pane dei poveri, che è tipica della cultura cattolica. Noi, giustamente, è orribile sprecare il pane quando c'è gente che non ce l'ha, ma il problema appunto non è dare a uno un pesce ma insegnargli a pescare. Prima la rivoluzione socialista, scusatemi questo momento retro, comunque chapeau anche da Avvenire che non si gira dall'altra parte. Mentre Extraterrestre, l'inserto del giovedì del manifesto, dice che c'è del rancio in Danimarca. Una volta c'era del marcio, ora c'è del rancio. Mangiare bene senza avvelenarsi si può. Lo dimostra Copenaghen, dove il 90% del cibo servito in ospedali, scuole ed uffici pubblici è biologico. Un obiettivo a costi contenuti raggiunto in collaborazione con associazioni politiche e grandi distribuzioni. Quindi tutti gli strali, qui non si può perché non è vero. Ci dimostra che un altro mondo anche del mangiare è possibile. La Danimarca si conferma primo paese al mondo per quota di mercato di prodotti bio. Un'esperienza virtuosa citata anche dalla FAO durante la settimana dell'alimentazione, di cui sopra citavamo il convegno romano, poi scartabellando all'interno di questo inserto la nostra finanza aiuta il clima, la buona notizia, direbbe la Gabanelli. Il presidente di Etica SRL Urlo Biggeri: oggi tutti propongono almeno un fondo green, noi misuriamo l'impatto climatico dei nostri investimenti, abbiamo i rapporti con i produttori di elettricità sostenibile. Insomma, direi che è l'incubo di Trump questo signore. Sì, Alfredo, io riprendo gli argomenti che arrivano dal sinodo sull'Amazzonia del Vaticano, perché c'è una svolta nella Chiesa, è stato istituito il peccato ecologico nel diritto canonico. I peccati ecologici all'interno del codice del diritto canonico, i padri sinodali riuniti in Vaticano per l'assise sull'Amazzonia chiedono che la Chiesa riconosca in modo anche formale che è peccato per chi ha fede tradire l'ambiente, bistrattarlo e averne rispetto. Così anche Vatican News, il portale di informazione vaticana, parla esplicitamente della richiesta di un canone ecologico. Si tratta di una proposta che segue un cambio di modalità non da poco. E riprendendo invece il decreto che è appena stato approvato, le critiche di imprese e di ambientalisti contro la plastic tax. Le critiche delle associazioni dicono che è inutile, serve solo a far cassa. La Confindustria dice invece che colpisce i prodotti e i consumatori. Il conto di quanto inciderà la plastic tax sui nostri consumi a partire dal giugno 2020 si fa rovistando nella busta per recuperare le bottiglie dell'acqua e del detersivo di casa pronte per essere buttate. Il documento programmatico di bilancio inviato al governo a Bruxelles dice: introduzione di un'imposta sugli imballaggi di plastica con decorrenza dal 1 giugno 2020, aliquota 1 euro per chilo. Ed ecco il calcolo: una bottiglia di plastica dell'acqua che pesa 23 grammi, l'imballaggio per la confezione da 6 pezzi 17 grammi, in tutto sono 1,5 euro alla confezione, un flacone di plastica detergente per la casa circa 64 grammi. Tutto questo diventa un balzello per il consumatore. E c'è un caso: da gennaio 2018 per legge possono essere comunque usati soltanto sacchetti biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo della materia prima rinnovabile non inferiore al 40%, ma da allora, pur di non pagare i 2 centesimi o più per ogni sacchetto, è aumentato l'acquisto di verdure e frutta preconfezionate. E a questo punto parliamo di acqua e di ambiente, e c'è una nota negativa per l'Italia, perché siamo campioni nello spreco dell'acqua e più di 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile e noi ne consumiamo 220 litri al giorno a testa. Siamo la maglia nera in Europa e la questione della rete idrica piena di buchi. E sono appunto 220 il consumo medio pro capite di acqua in Italia al giorno, contro i 122 della Germania, 128 della Francia e 137 dell'Austria. Il 62,5% invece sono le acque depurate. In Europa l'Italia è agli ultimi posti nella depurazione delle acque reflue. La depurazione avviene solo al 62,5% contro il 98,6% della Germania. L'obiettivo temporale del 2030, chiede l'ONU, di sostenibilità, ogni paese dovrebbe raggiungere l'efficienza idrica, evitare lo spreco di acqua potabile. Non è un bene infinito, c'è un'intervista a Luca Lucentini, dobbiamo imparare a proteggerle. Il direttore del reparto acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità ci dice che il fatto che l'acqua costi poco spesso porta le persone a svilirne la qualità. L'incontro che c'è stato a Venezia, e questi sono gli esiti di quanto è stato definito appunto in quel festival. Per quanto riguarda il lavoro, andiamo al sud, cominciando con l'Ilva. Perché l'immunità spacca i 5 stelle, la toglieremo, perché c'è fatto un decreto legge da rinnovato, per cui l'ILV può essere immune da ogni prescrizione ambientale, cioè può fare quel che vuole ed è intoccabile. Si chiama il ricatto del lavoro questo. In Senato tesa assemblea dei grillini, le disegni di legge imprese viene rinviata martedì, i vertici promettono la norma verrà stralciata. Ma l'azienda, la Mittelalcero indiana, avverte: le regole del gioco che ci sono del 2014 non si possono cambiare a metà partita. Ora, l'unica regola che si può cambiare a metà partita sono quelle dei pensionati, quelli si possono cambiare. Invece degli altri, quando si parla dei padroni, guai chi tocca. Ma veniamo invece alla Whirlpool. Andiamo alla Whirlpool, che col Mattino di Napoli, giustamente interessata alla vicenda del comparto del lavoro nella città. Whirlpool, la beffa dei premi. I dipendenti: quest'anno abbiamo ricevuto la gratifica di produttività e ora chiudono. Il rischio di licenziamento collettiva. L'ultima offerta di De Luca, pronti 20 milioni. Ma ha risposto la Whirlpool: non possiamo stare qui perché altrove il lavoro costa meno. E allora, come si può essere concorrenziali con la schiavitù? È praticamente impossibile. E allora parliamo della Whirlpool. A rischiare il posto, ricordiamo, sono 430 lavoratori. Che ieri ha avuto la notizia che hanno occupato l'autostrada. Su questo ascoltiamo le parole di Giovanni Fusco, delegato della FIOM. In questo incontro arriva dopo mesi di trattativa con l'azienda su un'ipotesi di riconversione che da tutti i punti di vista è una riconversione di facciata, perché questa azienda che doveva subentrare per prendere in carico il sito di Napoli non aveva le garanzie per poter sostenere il sito di Napoli. Questo detto non da noi ma da tutte le organizzazioni sindacali, ma anche testimoniato dal governo, che non si voleva prestare all'ennesima riconversione tipo Embraco, fatto dalla stessa Whirlpool, tipo Bluetech, tipo Iris Bus, che dopo anni sono diventate modi per dismettere stabilimenti. Oggi noi aspettavamo da parte, visto che sulla vertenza è stata portata a Palazzo Chigi, quindi c'era Conte, aspettavamo una posizione dell'azienda più di responsabilità. Invece, dalle notizie che ci sono arrivate, sia tramite comunicati stampa che tramite le dichiarazioni del ministro Paganelli, c'è stata una chiusura totale. L'azienda ha ribadito che la sua posizione è quella di smettere lo stabilimento di Napoli, e visto che non gli viene dato l'opportunità di presentare questa reindustrializzazione con questa fantomatica società, ci ha comunicato che dal 1° novembre cesserà l'attività. Ovviamente premetto che noi nel 2018 ad ottobre firmammo un accordo al Ministero dove era previsto un piano Italia e Napoli, il sito di Napoli, rientrava in questo piano Italia. Per Napoli erano previsti 17 milioni di euro e Napoli sarebbe diventato il polo dell'alto di gamma della Vaggio, quindi Napoli diventava centrale nel gruppo Whirlpool, come è sempre stato, perché lo stabilimento di Napoli è uno stabilimento di eccellenza per la produzione di prodotti di alto di gamma. A tutto questo, dal mese di marzo all'incirca, noi, su pressione nostra, perché volevamo sapere un po' gli investimenti quando venivano implementati e tutto, l'azienda non ci rispondeva, fino ad arrivare al 31 maggio dove ci ha comunicato che il sito di Napoli non era più profittevole e quindi veniva reindustrializzato con questa fantomatica società. E questo dunque era il delegato della FIOM. La cronaca italiana, velocemente, andiamo a Siena. Gli abusi sui bambini nella chat degli studenti, un papà che incubo. In Siena sono 27 sotto inchiesta con perquisizioni in Italia, racconta Lorenzetti e Marotto del Corriere. Nella chat dell'orrore, chiamate The Shoah Party, già il nome, il party della Shoah, giravano anche filmati di adulti che abusano di neonati e ancora altri video a luci rosse con adolescenti come protagonisti, slogan inneggianti a Hitler, a Mussolini e all'ISIS, insulti a migranti, ebrei e disabili. Cioè, berregue. Tutto su WhatsApp. Da circa un anno un gruppo di studenti di Siena avrebbe scambiato con coetanei immagini raccapriccianti e commenti feroci. Poi altri gruppi clone sarebbero spariti anche da Torino e da Roma. Questo è, e fa commentare allora il Fatto Quotidiano. I ragazzini di Yeshua Party, chat nazi e pedopornografiche. Immagino che questa cosa la Meloni la usi meno che la retorica su Bibbiano, perché si tratta di naziste. Foto, immagini, insulti contro poveri malati disabili, video di abusi su minori, anche piccolissimi, esultanze per Hitler, Bin Laden e 11 settembre. Questo ci parla anche di una... di un vuoto giovanile tremendo, che il vuoto, sappiamo, non rimane tale, viene riempito anche a volte dalle cose peggiori come quella della Shoah Party. Il vuoto è il tema anche che arriva da Roma con Stefano Simoncini del Manifesto. Desertificazione Roma, la città solidale sotto attacco. C'è una mappa degli spazi sgomberati a rischio sgombro che è impressionante, e quindi il cinema palazzo e non solo. Nella capitale ci sono centinaia di spazi sociali, di cui 200 in aree di proprietà comunale a rischio. Gli sgombri di eseguiti hanno lasciato solo degrado, perché appunto i centri sociali fanno aggregazione e se non c'è rimane il vuoto non rimane, arriva appunto la malavita o peggio. Minacciate decine di auto-organizzazioni del sociale, una città nella città che rischia di essere cancellata e che ora è riprodotta sulle mappe interattive di The Reiter, consultare per vedere appunto la distruzione in corso. Poi parlando invece di questioni di altro tipo, e sempre in ordine sparso, andiamo alla vicenda di Repubblica con la faida familiare tra padre e figli. Scontro in casa dei Benedetti, ci sono 200 milioni di ragioni, e quindi diciamo che la grande famiglia e i sentimenti si sgretolano davanti al portafoglio. Il gruppo Gedi ha affossato dalle testate storiche con un buco potenziale per Circa, appunto l'editrice della Repubblica, fuori dalla realtà. Per la holding nel 2018 il titolo vale ancora 1,23 euro, lontano dai valori correnti in borsa. Questo e dice Carlo De Benedetti, tanto per dire cosa pensa dei figli, cioè dice: oh, non è colpa mia se i miei figli non hanno passione e competenza per fare gli editori, se cioè non valgono un accidente, dice. Voglio portare le mie azioni e spero che in altri, in una fondazione. Cito anche il Fatto, ancora il Fatto Quotidiano, girando pagina, perché abbiamo la promozione del generale Casarsa, inquisito per il caso Cucchi, dalla stessa Arma, che ha fatto carriera nell'Arma, l'hanno promosso, e quindi parla Ilaria Cucchi. La sorella di Stefano commenta questo nuovo incarico al generale Casarsa, accusato di falso sulle condizioni del fratello. Premiano un imputato e penalizzano chi parla. Sono perplessa, disorientata dal carabiniere che ha raccontato quello che sapeva, hanno reso la vita difficile. Quell'altro invece è stato promosso. Questa è la cosa. Chiudo con una cosa che riguarda il mondo dell'arte, una polemica che è rimbalzata in questi giorni. Il TAR non ferma, l'uomo vitruviano, Leonardo da Vinci, va al Louvre, sia al prestito. Bocciato il ricorso, appunto, il Louvre, Parigi avrà Leonardo. Sì, ancora notizie in ordine sparso. Riprendiamo una notizia di un incidente mostruoso: un autobus a Roma contro un albero, un autobus della linea 301 sbanda e va a sbattere frontalmente contro un albero alla zona Cassia. Il sospetto è che l'autista guidasse con il cellulare ancora acceso e smanettava appunto su questo strumento. Una proposta di legge invece è un defibrillatore in tutti i luoghi pubblici. Il testimonial è uno studente di 16 anni, così a scuola io fui salvato dalla mia professoressa. Cronaca nera, Londra, un video shock in una discoteca, felici dopo lo stupro sono stati condannati due italiani. Sono studenti, uno è bolognese, ripresi dalla telecamera mentre si danno il 5 esultanti. La vittima, una 23enne ubriaca. Ancora una notizia di cronaca, sempre da Roma: una valanga di cibo nei rifiuti, buttati 450 euro a famiglia. Ogni giorno gettiamo 100 grammi a testa, 27 kg pro capite l'anno. La FAO vuole azzerare la fame entro il 2030, mentre nel mondo 820 milioni sono le persone denutrite. Ci sono anche l'elenco, sempre sul Carlino, pagina 12, delle app che si possono scaricare per le applicazioni che aiutano a risparmiare, permettono di ottenere sconti nella spesa e danno anche ricette. My Foodie, questo programma raccoglie tutte le offerte e i prezzi ribassati promosse dai vari magazzini della grande distribuzione organizzata. Buona occasione, l'applicazione che aiuta il consumatore a conservare 500 alimenti, fornisce consigli su come fare la lista della spesa e riutilizzare gli avanzi. E poi c'è Bring the Food, l'app che consente di mettere in contatto i commercianti, fornai, verdurai, eccetera, con gli enti benefici del loro quartiere per poter donare prodotti in scadenza evitando gli sprechi. Due news dalla cronaca locale: l'appello dei sindaci per Bonaccini, quindi Bonaccini governatore, non governatore per le prossime elezioni regionali. Sono 206 quelli che hanno firmato la lettera per il suo bis, tra questi 23 civici e Pizzarotti. Mentre il lungo addio della Conti, che lascia il PD per Renzi, la sindaca paladina degli indigrati, sparerà dal palco della Leopolda, forse sarà quella che più farà notizia in questa assise renziana. Con questo noi siamo arrivati in fondo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti. Lasciamo il microfono a Andrea Gozza e Angela Gozzo con